10 motivi per i quali non si può perdere la salvezza. Il più grande anelito di un essere umano è godere una beatitudine tale da renderlo felice ora e per sempre. E per questo che molti cercano denaro, successo e stima, perché pensano di trovarvi ciò di cui disperatamente hanno bisogno. Ma purtroppo tutto ciò che è in questo mondo non può soddisfare quella necessità insita nel profondo di ogni essere, e purtroppo non composta da materia. Avendolo capito, altri si rivolgono alle religioni, le quali promettono meno chi in un modo chi in un altro, meno la beatitudine eterna. Purtroppo però nessuna religione garantisce di ottenere l'anelito di una felicità eterna. Così ancora una volta l'uomo rimane nella più profonda incertezza. Ne è un esempio la religione cattolica romana. Lo scopo principale del cattolicesimo è battezzare i bambini, perché possano diventare figli di Dio, come se questa fosse una garanzia per ottenere la vita eterna. Meno ma se in seguito un cattolico fedele commette un peccato mortale e il sacramento non gli evita di andare in un luogo di tormento. Sembra proprio che non vi sia nessuna possibilità sia per l'ateo sia per il credente di raggiungere ora la certezza di possedere una beatitudine eterna. Ma se prendiamo sul serio ciò che è scritto nella parola di Dio, la Bibbia, essa e solo essa annuncia la certezza della felicità eterna a tutti coloro che pongono un atto di fede salvifico nell'opera unica e insostituibile di Cristo sulla croce. Infatti sta scritto: voi che credete nel nome del Figlio di Dio, sappiate che avete la vita eterna. 1 Giovanni 5.13. Solo un incredulo o un religioso con presupposti sbagliati può negare questa verità. I primi cristiani sapevano di avere la vita eterna, cioè la salvezza. Stabilito questo però ad assillare coloro che hanno posto fede in Gesù è ancora un altro interrogativo, cioè se una volta posseduta questa salvezza sia possibile perderla. Ecco che ci ritroviamo nella medesima spirale del cattolicesimo. Avendo questo dubbio, allora non serve a nulla diventare figli di Dio, perché tanto anche i figli di Dio possono andare alla condanna eterna. Cosa serve avere la salvezza o essere figli di Dio se poi non vi è nessuna garanzia di felicità eterna? Non è forse la più grande disperazione l'aver messo un piede su un punto di appoggio che può salvare dal cadere in un profondo burrone e poi avere il dubbio che questo tenga? E meglio vivere nella certezza, o essere tormentati ogni istante dal dubbio che prendere una medicina non salvi dalla morte? La cosa più saggia è fare delle serie ricerche per togliere il veleno o il cancro del dubbio. Si può essere certi della propria salvezza? Questa domanda spesso viene posta da persone non bene informate riguardo al piano di grazia di Dio, oltre che da coloro non ancora liberi da una eredità spirituale di provenienza cattolica romana. Dal momento che nessuna religione insegna la certezza della salvezza, è ovvio che si parli di perdita di salvezza. Ma la salvezza, una volta ottenuta, non si può perdere per nessun motivo. Tra le tante ragioni ne prenderemo in esame solo 10, le quali sono più che sufficienti per rendere sereno un figlio di Dio diventato tale dopo aver riconosciuto il suo stato di peccatore perduto e aver trovato in Cristo l'unica soluzione di salvezza. 1. Elle ha salvezza, non esse i perde, perché Gesè rimane per sempre padrone di un'anima arresa a lui. 1 Giovanni 5.9.13. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore. E la testimonianza di Dio è quella che egli ha reso al Figlio suo. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. E, opinione comune che la vita eterna meno, o la salvezza meno, sia uno stato d'animo, o un luogo privo di sofferenza. Oppure la salvezza viene vista come una cosa che Dio ci dà, al pari di una persona che dia una mela o 100 euro. Secondo la parola di Dio, la salvezza non è una cosa data da Dio, distaccata dalla sua persona, ma è invece lui stesso. Infatti, la vita eterna meno o la salvezza meno altro non è, se non la persona di Gesù Cristo. E chi ha Gesù Cristo, cioè, lo ha ricevuto nella sua vita come unico padrone e unica persona da pregare, meno possiede ora la vita eterna. Cosa comporta questo fatto? Comporta che, essendo Gesù diventato il padrone della vita di una persona, e avendone, conseguentemente, preso possesso della volontà, egli non rinuncia mai più ad essere il proprietario. Parlando del peccato dimorante nell'uomo, Gesù ha fatto un paragone con se stesso che deve essere preso sul serio. Or lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Ecco perché non si può perdere la salvezza, può la vita eterna, perché Gesù vi dimora per sempre. E per sempre è, per sempre, cioè senza limiti di tempo, il che in altri termini vuol dire per l'eternità. È possibile mettere in dubbio ciò che Gesù ha detto. Occorre avere fiducia più delle sue parole che delle nostre opinioni o sentimenti. 2. L.A. salvezza, non S.I. perde, perché non è possibile per un crede Nuovo Testamento e figlio di Dio cambiare. L.A. propria in Antico Testamento, U.R.A. 2 Pietro 1.14. Così l'Apostolo Pietro inizia la seconda lettera rivolta ai giudei dispersi nelle regioni circostanti, Gerusalemme. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, grazia e pace, vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Diventare partecipi di una natura che appartenga a qualche divinità è sempre stato il sogno dell'essere umano. I poemi della mitologia greca abbondano di narrazioni al riguardo, ma questa, si sa, è mitologia. Anche nel cristianesimo si parla di ricevere una natura divina, ma in questo caso si tratta della verità, sia perché la parola di Dio dice sempre il vero, sia perché è una realtà di fatto. Qualche detrattore della fede cristiana potrebbe sorridere e contestare tale dichiarazione di fede, ma come spiegare altrimenti che un uomo o donna qualsiasi, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, cioè la natura divina, all'improvviso, senza sforzo, sente di amare i cristiani, che prima odiava? Da dove scaturisce in lui il desiderio di compiere continuamente la volontà di Cristo, di studiare la parola di Dio per conoscere meglio Cristo Gesù, e non semplicemente come mero atto religioso? Che si facciano avanti coloro in grado di amare i veri figli di Dio e desiderosi della loro compagnia, e di adorare con questi l'unico Dio trino tramite Gesù Cristo. Come mai i veri cristiani sono perseguitati da tutti, in tutte le parti del mondo? Può un uomo odiare un suo simile solo perché è un uomo? Può mangiare un leone un altro leone solo per il fatto che è un leone? Un leone non mangia. Forse, un animale che non è un suo simile, come una gazzella o una pecora. Così un cristiano è odiato perché ha una natura diversa, non perché è un uomo. Quello che ha detto Gesù deve essere preso sul serio. Il mondo non può odiare voi, ma odia me. GV 7.7. Ciò che Gesù ha voluto dire è riferito a coloro che, senza saperlo, odiano la natura divina del cristiano, una natura che, unita alla propria di uomo normale, quest'ultimo porterà fino alla morte. Dunque, la salvezza non si perde, perché non è possibile cambiare la natura divina. 3. L ha salvezza, non S.I. perde, perché non è possibile tornare a essere la stessa persona di prima. Non solo il credente riceve una nuova natura, ma diventa anche una nuova creatura. Per questo non può ritornare ad essere quello di prima. Così leggiamo nella seconda lettera di Paolo scritta ai Corinzi. Da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano. E se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. 2 Cor 5.1-6-17. Quelli che predicano la perdita della salvezza dovrebbero pensare seriamente a questa verità, perché non si tratta solo di perdere qualcosa, ma di tornare come si era prima. È possibile questo? Nell'ambito umano uno potrebbe anche comprare una casa e poi perderla, ma nel regno di Dio tutto ciò che succede è eterno. Se uno è diventato una nuova creatura e, per questo, è entrato nel regno di Dio, come è possibile uscirne per ritornare al proprio stato precedente? Può Dio permettere un ritorno alla vecchia natura? Ciò che è terreno è mutevole, ma ciò che appartiene al regno di Dio è eterno. L'affermazione di Paolo in riferimento al corpo umano a maggior ragione si può dire appropriata per la natura divina dimorante nell'uomo arreso a Cristo. Ita. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita pieno di forza. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Vi è corpo naturale e vi è corpo spirituale. Qual è il terrestre, tali sono anche i terrestri. E qual è il celeste, tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. 1 Cor 15.4-2:49. Affermare che si perda la salvezza equivale a dire che l'incorruttibile creatura diventa di nuovo corruttibile, che lo spirituale diventa di nuovo terrestre, che ciò che è glorioso ritorna ad essere ignobile, che l'immagine del celeste sparisce e torna l'immagine terrena. Si fa presto a dire che la salvezza si può perdere, ma chi sostiene questo dimentica tutta una serie di dottrine e verità che cozzano contro, non permettendo d'affermare che un salvato può ritornare ad essere perduto. È come se uno affermasse che l'acqua sale dal mare verso le montagne. Nessuno gli crederebbe perché tale affermazione va contro la legge di gravità e altre leggi fisiche. Così chi conosce le leggi di Dio non può dire che la salvezza si perde. 4. L.A. Salvezza non è se i perde, perché il crede Nuovo Testamento e passa dalla morte alla vita. Giovanni 5.24. Con i cartoni animati o i film di fantascienza, noi siamo così abituati a vedere delle cose irreali da averle ormai inserite nel nostro modo di pensare, al punto da ritenerle vere. In un cartone animato vediamo la strega cattiva o anche una fata trasformare con la bacchetta magica un topolino in un cavallo e poi, quando lo ritiene opportuno, rimutarlo in un topolino. E così anche nei film di fantascienza, uno scienziato si trasforma in un mostro e poi ridiventa quello che era prima. Nella nostra fantasia pensiamo che sia possibile subire delle trasformazioni radicali e poi ritornare quelli di prima. Nulla di male nel sognare, fino a quando questo non si scontra con la realtà però. E nel peggior dei casi, quando i nostri sogni sono da noi proiettati nel campo spirituale. La parola di Dio afferma che la salvezza non si perde per vari motivi, uno dei quali è che il credente ha una esperienza tale da trasportarlo da una realtà, la sua, ad un'altra. Gesù si è espresso in questi termini. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. GV 5.24. Passare dalla morte alla vita non è un puro concetto filosofico che, come tale, alla fine non provoca alcun cambiamento, ma è una esperienza che modifica radicalmente la situazione della persona. Infatti, chi passa dalla morte alla vita realizza di aver camminato precedentemente nel buio spirituale, senza speranza, senza Dio, immerso nella sua ignoranza. E, a seguito della nuova e ineguagliabile esperienza, vede per la prima volta il mondo in un modo tutto diverso, comprende ciò che fa e distingue la verità dall'errore, ha nel profondo del suo cuore una beata attesa del futuro, ed è cosciente che Dio, in Cristo, è vicino a lui più della sua ombra. Vita e morte non sono due parole astratte, ma esse esprimono due realtà della vita. Con il termine morte si vuole intendere che le idee, i criteri, I sentimenti, le inclinazioni, le speranze, i modi di agire sono improntate unicamente a soddisfare il proprio egoismo e la propria vanità, mentre con il termine vita si vuole intendere che le cose vecchie sono state sostituite da cose nuove o tramutate in modo da non essere più quelle di prima. La mente è la stessa, ma è stata rinnovata e illuminata, il corpo è lo stesso, ma serve a giustizia. E non più come strumento di peccato, come pure il cuore e la coscienza. Una volta entrato in questo mondo, come può un credente ritornare a quello di prima? Il cristianesimo non è fantascienza o un cartone animato, ma una realtà che non può essere cambiata. 5. L.A. Salvezza non S.I. perde perché C. è L.A. nuova. Nascita Giovanni 3, 1-8. Affermare che uno è nato di nuovo è un altro modo per indicarne l'avvenuto passaggio dalla morte alla vita, ma con altre sfumature. Il nascere di nuovo mette enfasi sul fatto che la persona passa da un mondo ad un altro, come passare dal mondo della morte a quello della vita. È come dire che un bambino è nato. Il verbo nascere implica tutta una serie di cose, tra le quali è il passare da un mondo tutto suo, nella pancia della mamma, al mondo esterno nel quale dovrà vivere fino all'ultimo giorno. E possibile per un bambino ritornare nella pancia della madre? Anche Nicodemo, un uomo istruito nella legge di Dio, si poneva questo interrogativo e non è superfluo leggere il dialogo fra lui e Gesù. Gesù gli rispose e disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo. Lo spirito soffia dove vuole e tu ne odi la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è per chiunque è nato dallo Spirito. Se nascere di nuovo non comporta la certezza della salvezza, perché Gesù ha detto che occorre la nuova nascita? Se la salvezza si perde anche con la nuova nascita, qual è l'utilità di quest'ultima? Se si è salvati perché si è nati di nuovo, essendo cioè entrati nel regno di Dio, come si può ritornare nel regno delle tenebre? Se, come dice l'Apostolo Paolo, Dio ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati, CL 1.13, può il credente tornare sotto la potestà del malvagio? Gesù non ha mai sostenuto che gli appartenenti al regno di Dio possono esserne, in seguito, esclusi. Una volta entrati mediante la nuova nascita, nella vita dei credenti, meno se essi perdono la salvezza, meno si dovrebbe verificare uno sconvolgimento spirituale tale da non essere paragonabile neppure alla rivoluzione che avverrà quando Cristo Gesù creerà nuovi cieli e nuova terra. 6. L'EA salvezza non sei perde perché nessuno rapirà il crede nuovo testamento e dalla mano di Dio e di Gesù Cristo. Vi è un'altra ragione per la quale il credente non può perdere la salvezza, e è motivata dal fatto che ora egli si trova nel posto più sicuro di questo mondo, è nelle mani del Dio Trino. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti. E nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. G. Glettui 10.2.7.30. Essere nelle mani di Gesù Cristo e del Padre potrebbe essere considerato un simbolismo senza nessun valore. Ma se così fosse, uno si domanderebbe: a cosa servono tutti i simbolismi e le parabole se sono privi di valore? Dio forse parla a vuoto, e se a vuoto perché parla, forse, così, tanto per parlare? Oppure, quando Dio usa delle metafore vuole comunicare qualcosa? Se Dio vuole comunicare qualcosa, cosa vuole insegnare ai suoi figli, dichiarando di tenerli nella sua mano? Non vuole forse dire quello che succede nella realtà? Avere qualcosa in mano significa prima di tutto possederne la piena autorità e poi che nessuno può prendertelo. Così è di Dio. Essere nelle mani di Dio significa che il credente ha ceduto tutto se stesso al Creatore e di conseguenza nessuna persona malvagia potrà fargli del male. Ora, se il credente ha la salvezza, chi è colui che può toglierla? Se il credente è sicuro nelle mani di Dio, chi è colui che lo può rendere insicuro? Sostenere che il credente perde la salvezza equivale a dire che Dio non è in grado di tenerlo nelle sue mani, come pure che Dio è bugiardo. E dare a Dio del bugiardo è molto grave. Per associazione di idee, affermando che si fa Dio bugiardo, mi vengono in mente le parole dell'Apostolo Giovanni. Se noi accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è ancora più grande, poiché questa è la testimonianza di Dio che Egli ha dato circa il suo Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo ha fatto bugiardo perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa suo Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. 1 Giovanni 5:9-12. Se la salvezza si perdesse, Giovanni e tutti gli altri apostoli non avrebbero parlato con tanta sicurezza della vita eterna. A noi non resta che accettare l'impossibilità di perdere la salvezza. 7. Egli ha salvezza, non essi perde, perché il crede. Nuovo Testamento è già predestinantico testamento alla gloria. Romani 8:2-8:31. Il termine predestinare viene comunemente spiegato destinare in precedenza, in anticipo, o prestabilire qualcosa molto tempo prima che avvenga, anche se, come qualcuno ha fatto notare, il verbo greco dal quale deriva la parola ha un altro significato. Comunque, mantenendo il significato comune, se il credente è predestinato, cioè destinato prima che nascesse alla gloria, com'è possibile che in seguito perda tale vocazione? Per alcuni l'argomento della predestinazione è ragione di confusione, per me invece è un motivo di gioia e di riconoscenza, perché se prima che nascessi Dio mi ha già predestinato ad entrare nella gloria celeste, questo significa che l'essere beato non dipende dalle mie opere. E se non dipende dalle mie opere, la gioia celeste meno, cioè la salvezza meno, è assicurata per sempre. Chi dice che la salvezza si perde, per forza di cose deve anche ammettere che Dio ha mentito, perché meno sempre, secondo queste persone, meno non è più vero che sono stato predestinato alla gloria dei salvati fin prima della fondazione del mondo. Se invece sono stato predestinato, allora Dio non è in grado di salvare coloro che ha scelti. Ma la parola di Dio non ammette nessun dubbio, e le sue parole danno la massima sicurezza. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che Egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Rm 8:2-8:30. Da questa dichiarazione di Paolo risulta evidente che le persone predestinate sono i credenti e non gli increduli, come alcuni pensano. Inoltre occorre notare che Dio ha predestinato questi credenti non alla salvezza meno, anche perché sono già salvati meno, ma ad essere conformi all'immagine di Cristo, una conformità risultante da una fede genuina in Gesù. Se questo è il piano di Dio per i suoi figli, può Dio cambiare progetto? Se il credente perdesse la salvezza, ciò significa che Dio avrebbe dovuto cambiare tutti i suoi programmi e le decisioni che ha preso prima di creare il mondo. Ma questo è proprio impossibile perché, come sta scritto, i doni e le vocazioni di Dio sono senza pentimento RM 11 e 29. 8. L.A. salvezza non è se i perde, perché i crede Nuovo Testamento in Cristo, non è pie condannantico testamento. Romani 8.1. L'uomo va in perdizione perché subisce una condanna, ma se egli non ne subisce alcuna è evidente che non può neppure andare in perdizione. Proprio perché il credente non subisce nessuna condanna, egli è certo della salvezza. Così leggiamo nella lettera ai Romani. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Il dunque di Paolo è posto a conclusione di un lungo ragionamento teso a dimostrare che il credente può essere certo di essere salvato. L'Apostolo, infatti, dopo aver palesato che tutti gli uomini sono peccatori, ha pure mostrato che tutti coloro che pongono fede in Cristo, quale loro Salvatore e Signore, vengono resi giusti. Quando si è resi giusti, ovviamente non si è più sotto nessuna condanna. Ora, se si è resi giusti, se per questo non vi è nessuna condanna, come può il credente perdere la salvezza? Dovrà di nuovo subire una condanna. Una volta che ha reso giusto, il credente può Dio dire e ritenerlo ancora colpevole. Una volta che i peccati sono stati tutti perdonati e cancellati, può Dio attribuirglieli di nuovo? Affermare che la salvezza si perde comporta anche sostenere che Dio si pente di quello che fa. Se un credente in Cristo non è più condannato, nel momento in cui Dio lo dichiara nuovamente colpevole, significa che ritorna sui suoi passi. Significa che quello che ha detto non è vero e questo non è possibile. Inoltre, se il credente avesse la possibilità di essere punito, perché allora la parola di Dio afferma che non è più condannato? Che serve dire che per chi ha posto fede in Dio non vi è più nessuna condanna, se poi vi è ancora la possibilità di essere giudicato colpevole da Dio? Occorre accettare senza riserve ciò che la parola di Dio dice. Diversamente tutto ciò che è scritto non avrebbe più alcun valore. Se mettiamo in dubbio che chi cammina per lo Spirito non è più condannato, cosa dobbiamo credere? Se crediamo che chi è giustificato verrà comunque condannato, chi è allora colui che può essere certo di non essere disapprovato? Troppe domande si pongono, domande che svaniscono quando si è certi di essere salvati, perché di conseguenza si è certi di essere giustificati. 9. L.A. salvezza non è se i perde perché il crede Nuovo Testamento è morto e risuscita Antico Testamento in Cristo. Romani 6, 3 a 4. Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre. Così anche noi, similmente, camminiamo in novità di vita. La salvezza non è uno stato beato dell'anima, neppure un concetto filosofico senza nessun valore, ma è acquisire una posizione. Se io sono solo su di una barca e questa affonda, la mia salvezza non starà nell'essere convinto che, dopo tutto, non è successo niente, né fare buon gioco a cattiva sorte, per cui mi metto a cantare canzoni allegre, ma sarà nel trovare della terra sulla quale poggiare i piedi. Se mi trovo in un ciclone, la mia salvezza dal vortice mortale non sarà nella mia insensata pace, né nella convinzione che, dopo tutto, non è una cosa grave, ma sarà rifugiarmi in un luogo sicuro. Così è del credente. Chi ha scelto Cristo come l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, subisce un immediato passaggio spirituale dalla morte alla vita, ricevendo la stessa natura di divina di Cristo, tramite la quale è inserito in Cristo. Se il credente è immerso nella natura divina, può uscirne? Colui che è morto con Cristo e poi risorto con Lui può tornare indietro per fare un'esperienza contraria? Colui che si è salvato da un ciclone rifugiandosi al sicuro può avere il dubbio di fare un'esperienza contraria, cioè che il ciclone torni indietro, come in certi cartoni animati? Quando fanno avvolgere la pellicola al contrario? E se la pellicola girasse anche al contrario per il credente, non si vedrebbe di nuovo che colui che è morto e risorto in Cristo ripete le stesse cose? Chi è in grado di capire queste verità? Un'esperienza non si può cambiare. Al massimo, nel nostro ordine di cose terreno, si può ripetere come schiacciarsi un dito, ma un dito schiacciato rimane schiacciato, come chi è in Cristo rimane in Cristo. Se la salvezza è nell'essere in Cristo, com'è possibile perderla? Dovrei uscire fuori dalla mia posizione, ma come posso uscirne se ormai faccio parte del corpo di Cristo? È proprio impossibile, com'è impossibile perdere la salvezza? 10. La salvezza non è se i perde, perché Dio ha riconciliantico testamento, il peccantico testamento, or e con lui, e non gli imputa più alcun peccantico testamento, 2 Corinzi 5.18-19. Dio ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Le ragioni per le quali non si può perdere la salvezza sono molte, ma il fatto che all'uomo siano stati perdonati tutti i peccati, motivo per il quale è stato riconciliato con Dio, rimane un fatto unico nella storia delle religioni. Stipulando un patto nuovo con tutti gli uomini, Dio ha decretato che il peccato non è più un problema. Infatti lo ha tolto per sempre sulla croce mediante il sacrificio di Cristo, suo Figlio. Di conseguenza, chi pone fede in questo nuovo patto viene giustificato, riceve lo Spirito Santo, riceve una nuova natura, diventa figlio di Dio, passa dalla morte alla vita, ma, soprattutto a suo riguardo, di peccati non si parla più. Mai più, poiché questo è il piano di grazia di Dio. Come può il credente perdere la salvezza? È impensabile. Se la perdizione eterna è il merito di chi è un peccatore, come può questi andare alla perdizione eterna non essendolo più? Certo, la perdizione eterna esiste ancora, ma essa è destinata a chi rifiuta il perdono già offerto da Dio. Chi invece lo ha accettato, come può andare alla condanna eterna? Dio sarebbe veramente ingrato, ingiusto, un disonesto e imbroglione. Non ti sembra? Dio prima ti giustifica e poi ti condanna. Prima ti perdona e poi ti manda nelle pene eterne. Prima ti riconcilia a sé mediante Cristo e poi ti allontana per l'eternità. Non è tutto questo assurdo? Certo che è assurdo. È assurdo se la salvezza si perdesse, ma poiché non si perde e non si può perdere, non vi è nulla di irragionevole nel regno dei cieli. Occorre solo accettare come un piccolo bambino tutto ciò che Dio tramite Cristo ha detto. E poi una pace, una grande pace, scende nella tua anima, accompagnata dalla certezza di appartenere per sempre a Cristo, accada quello che accada. Non è tutto questo meraviglioso? Si potrebbero addurre tante altre ragioni per dimostrare che il credente ha ragione e può vantarsi di avere una salvezza che non gli sarà mai tolta, ma a mio avviso vi è un brano nella parola di Dio in grado di dare una sicurezza e una pace ineguagliabili. Mi riferisco ad un ragionamento inserito nella lettera ai Romani dell'Apostolo Paolo, il quale, dopo aver dimostrato che tutti gli uomini sono peccatori e che possono essere giustificati e glorificati in Cristo, conclude: che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Come sta scritto: per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. RM 8.3139. Per apprezzare queste riflessioni e domande occorre leggerle al contrario. Cioè, se Dio è contro di noi, chi sarà per noi? Chi assolverà l'uomo se Dio lo condanna? Chi ci farà oggetto dell'amore di Cristo, se noi pensiamo di non aver bisogno di Lui? E io aggiungerei, se Dio non mi dà la certezza della salvezza, chi me la può dare? La risposta è una sola, nessuno. Ma siano grazie rese a Dio perché Egli ha parlato in modo tale che chi ha posto una fede salvifica in Cristo può subito essere certo di appartenere a Dio per sempre e muore sapendo di andare alla presenza del suo Salvatore. Il credente è talmente nelle mani di Cristo e di Dio Padre che se anche volesse andarsene non potrebbe, perché nessuna cosa menem e neppure quindi elle a sua volo Nuovo Testamento potrà separarlo dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, suo Signore. Ci è forse qualcosa di più prezioso? Non credo proprio. Dicembre 2008. Ellero.